Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog Guardi o Ladri, lo trovate o con un motore di ricerca o sull'home page del Sole 24 Ore Online. Allora, oggi ci occupiamo di una cosa molto particolare che devo dire non conoscevo, e sapete, lo dico spesso, l'ignoranza è il pregio maggiore di un giornalista. Parliamo infatti di tutti quanti coloro si trovano a prestare assistenza a dei pazienti particolari, perché sono dei pazienti che sono colpiti da malattie rare, rarissime, degenerative, molto gravi. Insomma, parliamo dell'ambito del cosiddetto caregiver, che è una parola inglese che vuol dire colui il quale presta assistenza. Ne parliamo perché? Perché ci è giunta una lettera in redazione di un caso personale, ma come amo ripetere, un caso che però coinvolge chissà quanti di voi all'ascolto. Vale a dire, un radioascoltatore da Pisa, in realtà è a cavallo tra la Sicilia e la Toscana, vedremo perché, Salvo Consoli, che ha denunciato un caso di grave violazione di diritto alla salute in Toscana. Allora, premetto subito, come sapete io amo sempre sentire tutti gli interlocutori e dare la parola a tutti i protagonisti coinvolti, quindi premetto, abbiamo cercato l'ASL 5 di Pisa, la quale ci ha fatto sapere attraverso l'ufficio stampa che non era l'ASL responsabile del caso che trattavamo. Ha rimbalzato la responsabilità sulla clinica psichiatrica 2 di Pisa. Noi abbiamo contattato la professoressa dell'osso, la quale ci ha detto che da parte sua e della sua clinica è stato fatto tutto il possibile per agevolare il paziente e la famiglia, quindi non hanno nulla da dire perché tutto ciò che dovevano fare lo hanno fatto. Non solo, credo che abbiano fatto qualcosa anche di più, addirittura credo che abbiano denunciato in qualche modo la famiglia per un comportamento non corretto nei confronti proprio del familiare. Avremmo voluto sentirle dire queste cose in trasmissione, ma non sono venuti. Ed allora sentiamo quindi dalla voce del nostro radioascoltatore Salvo Consoli che cosa è successo a suo padre Carmelo Consoli. Buongiorno Consoli, prego. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, quello che vogliamo rappresentare è una realtà assurda che non è una fiction dell'horror, ma una qualcosa che stiamo vivendo direttamente, con una legalità violata e una verità nascosta, che vede un cittadino, mio padre, ammalarsi e chiedere il diritto alla salute e invece trovare una serie di omissioni e posizioni di nieghi fino ad arrivare anche ad atti di violenza e anche di diffide e denunce che sono state perpetrate nei nostri confronti per violazioni degli obblighi di diritto familiare e per abbandono. Tutti fatti che sicuramente non hanno, diciamo, nessun presupposto e fondamento, perché mio padre... Quindi lei era a conoscenza del fatto che sono state sporte delle denunce nei vostri confronti? Allora, io sono a conoscenza perché la diffida è stata presentata in presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria dell'ospedale, in presenza dei visitatori, in presenza di mio padre e davanti, diciamo, a tutti gli altri pazienti, quindi esercitata e comunicata in un modo sicuramente non molto etico, non molto consono, diciamo, alle condizioni di mio padre. Ecco, allora io vorrei andare un pochettino più nello specifico, e se c'è necessità lo dico subito agli altri ospiti in linea in collegamento con noi che presenterò più tardi, possiamo fare anche due puntate di questo caso, quindi spieghiamo le cose con calma. Allora, abbiamo capito che c'è una guerra di carte in procura che vede l'ASL, comunque la clinica psichiatrica, accusarvi di abbandono di persona incapace, e voi che invece accusate questa clinica psichiatrica e comunque l'ASL, in ogni caso la struttura sanitaria, di cosa esattamente consola? Ecco, ci spieghi bene che cosa accade a suo padre da anni a questa parte. Allora, la storia, diciamo, è molto lunga perché 9 anni, però partendo, diciamo, dall'ultimo episodio che è verificato all'interno della clinica di Pisa, possiamo dire che ci siamo visti comunicare la decisione delle dimissioni in un momento in cui mio padre era particolarmente malato, stava particolarmente male, per cui io mi sono attivato con tutti i tentativi vari di farlo trasferire in un'altra clinica a Nozzano, che ha rifiutato. Mi sono attivato con l'ASL per trovare dei tentativi bonari e non c'è stato altro che fare un rimpallo di responsabilità tra il centro di igiene mentale e assistenti sociali. A quel punto siamo intervenuti legalmente facendo un'opposizione alle dimissioni e chiedendo l'intervento formale dell'ASL, che ha l'obbligo di intervenire in questi casi per i pazienti non autosufficienti. Ecco, io la fermerei un secondo, perché come dicevo prima, in inizio di puntata noi abbiamo cercato tutti gli interlocutori. Ebbene, nei colloqui informali che la mia redazione ha avuto con il primario, appunto, la dottoressa Dell'Osso, ci veniva spiegato che suo padre è stato in realtà, come dire, uso magari un verbo un po' troppo forte, comunque beneficiato di questa lunga degenza, perché in realtà il reparto in cui lui stava non era per degenti cronici quale era appunto suo padre, ma era un reparto per emergenze. Quella di suo padre non poteva più essere definita un'emergenza, e solo 11 posti letto, se ricordo bene, sono a disposizione di quel reparto. Allora, ripeto, cari radioascoltatori, è sì un caso singolo, ma in realtà interessa moltissimi radioascoltatori che si trovano, ahimè, con parenti non autosufficienti, degenti, diciamo, cronici in giro per l'Italia. Quindi sentiamo bene quello che ci viene raccontato. Allora, come risponde a questa difesa o a questa accusa, a seconda del punto di vista, dell'azienda psichiatrica dell'ospedale Sant'Anna di Pisa? Prego, console. Rispondo con in mano la legge. Allora, c'è una volta che abbiamo noi chiesto questo obbligo di intervento da parte dell'ASL e l'ospedale ne ha conoscenza, c'è l'obbligo da parte dell'ospedale di comunicare che c'è un paziente non autosufficiente che ha bisogno delle cure all'ASL, ASL che peraltro ha notizia da parte nostra formale di questa richiesta, e quindi concordare le dimissioni protette e programmate del paziente da avviare verso una struttura idonea alla sua patologia. Ecco, ma in questo momento suo papà dove si trova? In questo momento mio padre si trova a Catania, perché, diciamo, in epilogo a questa storia, dopo un appello che è stato lanciato dal TG5, è stato proditoriamente trasferito a Catania dopo oltre 2 anni, senza che non ne sapessimo niente. Ecco, allora io la fermo qui, dottor Salvo Consoli. Era per questo che prima dicevo che è una storia che si dipana tra la Toscana e la Sicilia, e chiamo in causa Gianfranco Mannini, che è presidente e fondatore dell'associazione che raggruppa, come dicevo in premessa, coloro i quali sono accanto alle persone che soffrono, ma è anche coordinatore nazionale per i diritti degli anziani e dei disabili dell'ADUC. Buongiorno Mannini. Buona giornata a tutti voi. Allora, come commenta questo episodio, che non sarà l'unico ed è per questo che ce ne occupiamo, in giro per l'Italia? Quell'episodio che appunto traccia in maniera esemplare la condizione dei pazienti psichiatrici e dei caregiver che se ne prendano cura, nel senso che secondo una vecchia concezione del manicomiale, i pazienti psichiatrici sono oggetti e non soggetti. Infatti il padre del signor Conso è stato preso come un pacco postale e spedito a Catania. Per quanto riguarda i familiari, appunto, gli viene negato il diritto di essere parte attiva nella cura del paziente, quindi di partecipare in maniera precisa, puntuale, e quindi si creano nei caregiver appunto una serie di conseguenze, anche alla fine si ammalano anche loro. Ecco, infatti praticamente io ho davanti a me anche uno studio dell'Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia, che proprio parla di ansia, depressione e stress nei caregiver, cioè coloro i quali accompagnano in questo percorso di sofferenza e malattia le persone appunto degenti, le persone malate. Però le chiedo questo, Mannini, ma è possibile che bisogna arrivare ad una guerra di carte bollate, di denunce contro denunce, querele contro querele? Perché queste cose non si risolvono pacatamente? È possibile che la legge sia così ingarbugliata da non far capire chi ha ragione? È volutamente ingarbugliata per dare il carico maggiore economico e fisico alle famiglie invece che alle istituzioni, perché le leggi sono chiarissime in realtà. nel caso del signor Consoli la dottoressa Dell'Osso ha ragione fino a un certo punto, che sì, finita la fase acuta, lei doveva chiedere alla ASL una procedura di dimissioni protette e programmate, quindi era lei che doveva chiedere attivare questa procedura, perché il signor Consoli, essendo paziente non autosufficiente, quindi non potendo curarla a casa, doveva semplicemente trasferirla in una RSA, una residenza sanitaria assistita, cioè gestita dal territorio, dalla ASL. Ho capito, invece cosa... semplice e normale, prevista da tante leggi, da demagogiche, perché appunto poi non trovano attuazione, approfittando della debolezza di questi soggetti, che ripeto, sono i cosiddetti non garantiti, perché non fanno parte né di corporazioni, né di sindacati, né di partiti, per cui su di loro si possono abbattere tutte le tempeste di questa terra. Benissimo, io la ringrazio per il suo intervento, Mannini. Torneremo su queste episodi borderline, cioè al confine tra il lecito e l'illecito, al confine tra la conoscenza e l'ignoranza delle normative a discapito della salute, ahimè, dei cittadini. Grazie al nostro radioascoltatore Consoli, a Fabio Cantatore in regia e a Laura Faggin in redazione. Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.